innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Molto carine. Grazie. Però adesso parliamo anche in coro col generale. Allora, come le gemelline siamesi. Comincia tu, se no qua non finiamo più. Chi è tu, Alice o Ellen? Che cosa avevamo detto? Io ero Ellen, Alice. Ok, Alice, dove andiamo? Puoi rifare oggi la performance? Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Adesso l'abbiamo scoperta, non la molleremo più per settimane, questa bellissima colonna sonora che è destinata ad accompagnare l'inizio di diverse trasmissioni, molte trasmissioni, almeno fino a quando questa crisi del mercato azionario cinese durerà. Allora, siccome poi l'impatto è abbastanza duro, tra le scelte di investimento dei risparmiatori, in realtà forse noi auspichiamo di poterla abbandonare al più presto. Lo avrete capito, oggi a Cuore Denari ripartiamo, come ieri, dalla stretta attualità finanziaria. Ripartiamo dalla Cina, perché è da lì che partono i timori che trascinano a ribasso anche le borse europee e Piazza Affari. Dopo il pesantissimo lunedì nero di ieri, il Black Monday, come le agenzie di stampa cinese lo hanno ribattezzato, oggi in Cina si è replicato nella stessa identica misura, perché gli indici cinesi hanno perso tra l'8 e il 9% anche oggi, mentre l'Europa tenta di liberarsi da questa sensazione di panico che sta pervadendo l'atteggiamento degli investitori che non vogliono più puntare sul mercato appunto cinese. Abbiamo un recupero oggi delle borse europee. Non è un recupero che colma le perdite di ieri, ma quantomeno ci si riprova, poco più che un rimbalzo tecnico, possiamo definirlo. Parigi più 2,67%, Francoforte più 2,47%, Londra più 2,32%, Milano più 2,54%, sono in recupero tutti i titoli a Piazza Affari. Ieri era tutto in profondo rosso, oggi vedo il verde abbastanza diffuso fra tutti i settori. Oggi, oltre a tenervi aggiornati su quello che succede appunto in tempo reale, nella pagina di Denari iniziamo a chiederci cosa comportano questi scivoloni per i piccoli risparmiatori. È un tema che affronta stamattina anche il Sole 24 Ore in moltissime pagine, poi in una appositamente dedicata intitolata proprio La bussola del risparmiatore, che è stata curata da Vitaliano D'Angerio del Sole 24 Ore e da molti altri colleghi. Oggi in particolar modo la firma lui. Vitaliano, ben ritrovato. Buongiorno. Ciao Deborah, buongiorno a tutti. Abbiamo avuto rientro strong dalle ferie io e te, non c'è che dire, non ci siamo fatti mancare niente nella giornata di ieri. Per quello che riguarda naturalmente la pagina di Cuore, che avremo dalle 11.45, oggi parleremo di un disturbo, un'infiammazione che riguarda soprattutto moltissime donne, parleremo di cistite, ne parleremo dalle 11.45 appunto con la professoressa Irene Cetin, primario del reparto di ginecologia all'ospedale Sacco Università di Milano. Su entrambi gli argomenti, quindi divisi in due, nella prima parte scenari di investimento, scenari per i piccoli risparmiatori alla luce della crisi dei mercati finanziari di questi giorni, e poi sul secondo argomento, microfoni aperti come sempre a voi tutti all'800 24 00 24. Invece in giù di così non si poteva andare, in basso di così c'è solo da scavare, per riprendermi, per riprenderti ci vuole Oggi riprovano la risalita le borse europee, come vi dicevo, raramente si è scesi più in basso di così. Ieri Milano ad un certo punto nel pomeriggio ha toccato meno 7%. Allora Vitaliano, io ho chiesto al nostro ufficio studi di farmi una ricerca. Negli ultimi anni quante volte aveva toccato un punto così basso nel corso della giornata a Piazza Affari? È successo per esempio il 6 ottobre del 2008, meno 8,20% nel corso della giornata aveva fatto Milano. Sappiamo benissimo cosa era successo in quel periodo. periodo. Un mese prima era fallita Lehman. Lehman, no? Brothers, esatto. Poi meno 6%, meno 6 punti e mezzo in qualche giornata si è toccato nel 2011, nell'anno della crisi dello spread, esatto, del debito sovrano. Insieme a Vitaliano, però, naturalmente abbiamo interpellato anche un operatore di mercato. Questa mattina salutiamo e ringraziamo per essere con noi Michele De Michelis, responsabile degli investimenti di Frame Asset Management, peraltro anche autore di un libro molto interessante che si chiama Il fondo che non affonda, guida rapida per imparare a selezionare fondi e gestori. De Michelis, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, 800 24 00 24, numero verde per gli ascoltatori a cui chiedo: avete seguito anche in vacanza le vicende finanziarie di questa estate 2015? Avete già fatto una chiacchierata, magari interrompendo anche le sue vacanze, con il vostro consulente finanziario per capire se al rientro dalle ferie è il caso di riorganizzare strategia di investimento? Ritenete che ora sia meglio non fare niente, non agire di impulso, ma aspettare che le acque si calmino, che il quadro si definisca meglio, così da organizzare appunto le scelte di risparmio in maniera più lucida? E cosa vi preoccupa di più, il calo delle borse o le prospettive di un rialzo dei tassi di interesse, con l'effetto che questa misura potrà avere nei prossimi mesi sul mercato obbligazionario? Ci potete anche scrivere al 349-238-6666. Vitaliano, quali sono le domande che si fa la bussola del risparmiatore stamattina? Allora, innanzitutto abbiamo parlato con consulenti finanziari proprio per capire che cosa hanno detto ai loro clienti, fondamentalmente. E loro che cosa hanno fatto? Alcuni ieri mattina hanno mandato delle email rassicuranti, ma non perché, come dire, si vuole spargere ottimismo a tutti i costi, esatto. No, perché secondo queste persone che abbiamo sentito, in sostanza quello che è avvenuto ieri non è l'inizio di un ciclo recessivo, ma è uno storno, scossone, come lo vogliamo chiamare, fisiologico, che in passato, fino a 3-4 anni fa, avveniva sempre durante l'anno, no? In maniera meno violenta, e che negli ultimi 3-4 anni, causa manovre non convenzionali delle banche centrali che hanno dopato i mercati, ci si era di fatto disabituati a questa situazione. Automaticamente adesso sembra chissà che cosa, ma o comunque erano delle correzioni più arginate, sostanzialmente. Come tu già hai verificato con l'ufficio studi, cose del genere sono avvenute nel 2008 e nel 2011. Negli ultimi 2-3 anni sembrava che fossero scomparsi. Quindi loro hanno rassicurato, hanno detto: guardate, è soltanto uno scrollone fisiologico, anzi in questo momento, se avete della liquidità disponibile, si creano addirittura delle opportunità, soprattutto in area dollaro, perché con un cambio euro-dollaro a 1,16 c'è la possibilità di diversificare in quell'area. Allora, quali sono le scelte operative dunque che suggeriscono i consulenti che hai interpellato? Perché leggevo appunto che qualcuno dice che naturalmente il proprio cliente chiede di mettere a riparo intanto il proprio portafoglio, sì. Ed è questa la prima cosa alla quale si pensa ancora prima di cogliere le opportunità che si stanno manifestando in questo momento, no? Perché si parla di opportunità? Perché di fatto i consulenti in questo caso, ma anche altri gestori, hanno già attrezzato il portafoglio per resistere a queste situazioni. Tu questa situazione la dovevi prevenire 6 mesi fa, cioè non è che tu sai quando accadrà il cigno nero piuttosto che lo scrollone, però tu attrezzi il tuo portafoglio proprio per resistere a queste situazioni. Quando ci sono situazioni di panic selling, lo sai meglio di me, che cosa dicono ai propri clienti? Non fate niente, perché in questo momento rischiate soltanto di vendere a pezzi stracciati anche delle cose buone. Certo. Però per quelli che invece vogliono, hanno bisogno di liquidità in questo momento e vogliono disinvestire, il consiglio è: abbiamo fatto l'ipotesi di 50% di obbligazioni, 50% di azioni, la classico portafoglio, allora di ridurre della metà la quota azionaria, in particolare di ridurre le esposizioni sui mercati emergenti e di sterilizzare appunto gli investimenti, in particolare in lira turca, rand sudafricano e un'altra che non ricordo in questo momento. Adesso la ripeschiamo nelle tue pagine, perché sì. Tra l'altro le pagine sono tante, quindi andare a prendere il Real Brasiliano. Questo è un po' le cose da fare, però chi l'ha detto, chi l'ha segnalato, in questo caso è AG Advisory. Occhio, perché in questo momento è tardi, soprattutto per quelli che hanno l'esposizione in dollari. Ormai l'euro è risalito già a 1,16, occhio che vendere in questo momento è rischioso. Allora, intanto c'è già qualche ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666. Personalmente Andrea da Milano sottolinea: spero che la crisi cinese duri ancora un po' per avere tempo di investire, vedi Post, 2008, Warren Buffett, docet. E ancora un altro ascoltatore da Padova, si firma Dex: ha ancora senso il rialzo dei tassi americani? Lo chiediamo a Michele De Michelis, dal quale però voglio partire con un'altra considerazione. Voglio capire da lui che cosa l'ha più colpita di quello che è successo in queste settimane sui mercati, dottor De Michelis. Secondo lei siamo più vicini ai fatti del 2008, bancarotta Lehman Brothers, o a quelli del 2011, crisi del debito sovrano e dello spread? Ma diciamo che io sono abbastanza d'accordo con quanto dicevano i vari consulenti nelle mail che scrivono ai loro clienti. Mi sembra più una correzione, seppur violenta, che non un inizio di un bear market. Questo perché bear market è il mercato orso, tanto per appunto spiegarlo, esatto, ai nostri ascoltatori. Sì, quando proprio si comincia una discesa duratura, diciamo, del mercato azionario, esatto, che è il contrario, esatto, del toro. Ecco, così abbiamo spiegato per gli ascoltatori che non hanno confidenza con il gergo finanziario. Dottor De Michelis, quindi diciamo, perché è vero che avevamo un pochino perso ultimamente l'abitudine a questi scrolloni estivi, soprattutto in agosto. Infatti, per esempio, mi ricordo nel 1998 c'è un meno 19% dello Standard Poor's 500, l'indice azionario americano, ed addirittura del 36% del DAX europeo, quando ci fu la crisi del fondo hedge fund Long Term Capital. Quindi diciamo che queste situazioni nel passato si sono verificate spesso. Credo che anch'io sia più simile a uno storno, una correzione, quantomeno è quello che io auspico, soprattutto perché non vedo dei segnali particolari di richiesta di beni rifugio, come per esempio il franco svizzero o l'oro. Una cosa che mi ha assolutamente fatto impressione è il fatto che il franco svizzero non sia salito, anzi l'euro si è rafforzato nelle ultime settimane con il franco svizzero, che appunto è un bene rifugio per antonomasia. E lo stesso oro, sì, è un pochino tornato su rispetto ai minimi di 1080 o all'oncia che abbiamo visto un paio di mesi fa, ma non di molto. Quindi la sensazione che sia stato più una corsa tutti insieme alle chiusure delle posizioni, e che appunto ha creato questa enorme volatilità e tutta una serie di chiusure delle posizioni che hanno portato appunto a un ribasso dei mercati abbastanza consistente. E questo è quanto lei scriveva in questo report che ha pubblicato intorno al 6 agosto, dal titolo Ricerca della protezione, giusto? Esatto, diciamo che ai primi di agosto avevo brutte sensazioni, però non mi aspettavo una correzione così violenta. Quello che poi devo anche notare è che non c'è stato un allargamento degli spread tra, esatto, il BTP e il Bund, come è successo nel 2011, e quindi questo mi fa pensare appunto che, come dire, ci sia stata una vendita delle posizioni, i cosiddetti i rischi asset, quindi le posizioni rischiose, come in particolare l'equity, però poi non, diciamo, i soldi sono andati sul conti correnti e sono in attesa di essere reinvestiti, certo, non sono scappati verso altri lidi. Certo. E questo, diciamo, mi fa ben sperare che possa essere appunto una correzione, anche perché, tornando per un attimo al mercato cinese, vorrei far presente ai telespettatori, agli ascoltatori, che il mercato cinese aveva fatto il 150-200%, sì, nell'ultimo anno e mezzo, quindi la correzione del Shanghai, che da 5.000 torna a 3.000, è una correzione che ricorda molto la correzione del Nasdaq nel 2000, ma dopo appunto il famoso 99 delle 1000 bolle blu, e poi dopo siamo appunto, certo, insomma, corretto. Di questo scenario di bolla del mercato cinese si parla da tempo, per cui effettivamente, anche se poi queste correzioni sono così dirompenti, sorprendono e anche spaventano, di fatto erano nei numeri appunto che si dovessero verificare, era ormai uno scenario preconfigurato da molti operatori. Tra l'altro, se andiamo a vedere anche le prestazioni dall'inizio dell'anno, sempre il Sole 24 Ore riporta questo bilancio per molti indici, addirittura Milano è ancora positiva, più 7,57%, e stamattina ci mette insieme un altro 2% di recupero. La borsa cinese invece praticamente si porta sulla parità, sì, diciamo ha azzerato i guadagni dall'inizio dell'anno, ma ancora lo scivolone non è così consistente. Da inizio anno, dal massimo dell'anno, però è sotto di circa il 38%, a cui mettiamo insieme anche l'8% che ha di calo che ha accusato questa mattina. Sono in negativo anche le altre piazze europee. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. A questo punto lo dicono anche molti editoriali questa mattina sui quotidiani, lo fa anche il nostro direttore Roberto Napoletano. Sono le banche centrali che ancora una volta dovranno metterci una pezza. Questa mattina ha tentato di farlo la banca centrale cinese, perché ha effettuato la più consistente iniezione di liquidità nel sistema finanziario degli ultimi 6 mesi. Ha messo nel sistema 150 miliardi di yuan, circa 23,4 miliardi di dollari, e ha venduto anche 60 miliardi di yuan di depositi del tesoro a 3 mesi al tasso del 3%, misure che magari a molti risparmiatori non diranno nulla, ma che invece al sistema bancario e finanziario dicono molto. Come i pompieri che arrivano esattamente a spegnere un po' l'incendio. Infatti abbiamo visto che, pur essendo così consistente, molto effetto non l'ha avuto questa manovra. Comincerei a sentire gli ascoltatori. Antonio da Terni, benvenuto all'800240024. Quali Buongiorno. Sono le sue curiosità su quello che è accaduto sui mercati in questi giorni? Ma più che altro volevo testimoniare un po' il sentimento di un piccolo risparmiatore come sono io e come sono persone che conosco, che sono stati attirati in borsa anni fa con in effetti la possibilità di, ma diciamo anche facili guadagni, e che poi si sono ritrovati in questa situazione che è un po' diversa, in cui magari poi si usano termini come fisiologici certe cadute, che se proprio fossero così fisiologiche sarebbero anche un po' più prevedibili di quello che invece non sono. Insomma, la svalutazione cinese è arrivata come un fulmine a ciel sereno, 24 ore prima non ne parlava nessuno e poi è accaduta, no? Antonio, proprio che non ne parlasse nessuno non sono convinto, magari qualche volta certe informazioni, per noi che siamo un po' distaccati come comuni mortali da questi argomenti, non riusciamo magari a leggerle. Se ci appassionassimo un po' di più a certi report che però circolano prevalentemente fra le sale operative, fra gli operatori specializzati in italiano, forse qualche informazione la coglieremo. Questo è il grosso problema della simmetria informativa, di cui abbiamo parlato tante volte anche da questo microfono. Assolutamente, anche per questo di solito ho i risparmiatori è un appassionato, quindi segue sistematicamente, o altrimenti deve affidarsi a qualcuno che segua per lui. È come quando andiamo dal meccanico. Io credo che il Sole 24 Ore sia almeno dall'inizio di giugno che parla della sindrome cinese. Sì, assolutamente, sia della sindrome cinese sia di un possibile storno sui mercati. Se ne parla da inizio anno, soltanto che ovviamente ognuno di noi è preso da tante altre cose. Non puoi... C'è anche peraltro De Micheli su un altro segnale che ci poteva dare qualche indicazione preventiva di quello che poteva accadere. Il fatto che la banca centrale americana ritardi ancora questo aumento dei tassi di interesse, proprio perché non è sicura dell'impatto che potrà avere sui mercati questo ritorno a una politica restrittiva monetaria. Sicuramente la Yellen sta facendo molta attenzione, sta pesando con estrema cautela le parole che dice nei vari incontri anche con le autorità americane. Io però vorrei anche far notare una cosa: se si guarda i grafici degli indici cinesi si vede proprio un andamento diciamo di tipico della bolla, cioè quando l'impennata fa sì che diciamo è come se fosse un triangolo che diventa molto acuto. Ecco, io direi che se si va a controllare tutte le situazioni di mercato in cui è avvenuto questo, dopo poi il triangolo si chiude alla rovescia, quindi diciamo che gli eccessi vengono sempre corretti così come vengono come si alzano. Il tema è che giustamente Antonio diceva, poi certe informazioni a noi piccoli risparmiatori non arrivano nei tempi in cui dovrebbero arrivare, proprio per questo è necessario mettere in atto una strategia di investimento adeguata con il proprio consulente, che guardi ai propri obiettivi e non tanto ai grafici dell'indice di Shanghai o degli altri indici. È un lavoro da trader quello là, che ogni giorno guarda i monitor, ma non possiamo, o facciamo quello come lavoro, ci sono anche quelli che fanno i day trader, o altrimenti dobbiamo prevenire certi rischi, non si può sapere tutto, no? Lei che ha scritto De Michelis Il fondo che non affonda, questa guida rapida per imparare a selezionare fondi e gestori, che cosa risponderebbe se incontrasse Antonio da Terni e le facesse faccia a faccia quella domanda che ci ha fatto prima? La mia risposta è proprio quella di affidarsi a dei bravi professionisti, perché appunto nella mia piccola guida alla ricerca del fondo che non affonda, il cui titolo è chiaramente abbastanza indicativo proprio per dire che non esiste, cioè non esiste un fondo che non affonda e che va sempre bene in tutte le situazioni, però esistono dei bravissimi operatori, dei bravissimi gestori che sanno gestire il denaro come con l'approccio del buon padre di famiglia, che evitano proprio gli eccessi e cercano di comprare quando è il momento di comprare e di vendere quando è il momento di vendere. Tra l'altro ora sul mercato ci sono presenti per risparmiatori moltissimi fondi cosiddetti tradizionali o UCITS, come vengono chiamati oggi, quindi a disposizione anche per la clientela retail, appunto fondi dove l'approccio del gestore è quello di gestire il denaro come se fosse tutto il denaro del cliente, quindi con approccio alla gestione patrimoniale. E quindi io, proprio per evitare il fai da te, proprio perché appunto i mercati finanziari sono sempre più difficili, io consiglio di fare una buona asset allocation con dei fondi gestiti da bravi gestori e ovviamente affidandosi anche a un buon selettore. Anche da quel punto di vista è molto importante. Altro grande tema, perché poi molti ascoltatori chiedono: sì, va bene, questo è un suggerimento che offrite spesso, ma poi anche per noi non è facile individuare il consulente, il professionista che faccia il caso nostro. Ci dobbiamo prendere del tempo naturalmente anche per fare questo lavoro, contare un po' sulle nostre sensazioni, l'istinto, la pelle, e prenderci tutto il tempo necessario per fare una scelta. Non è obbligatorio consegnare immediatamente il nostro risparmio alla prima persona che incontriamo. Mi rendo conto che è molto facile dirlo da un microfono, poi mettere in pratica queste idee è tutt'altra cosa. Volevo chiederti, Vitaliano, perché Domenico ce lo chiede da Andri, al 349-238-6666, se possiamo ribadirgli quelle considerazioni che i consulenti che tu hai interpellato per la pagina di oggi del Sole 24 Ore hanno fatto sul tema delle obbligazioni in valuta turca, brasiliana e sudafricana. Allora, innanzitutto sterilizzare vuol dire vendere, in sostanza, no? Vendere gli asset in monete emergenti. In particolare Agostino De Luca di Agile Advisory segnalava appunto di sterilizzare obbligazioni in rand sudafricano, in lira turca, in real brasiliano. Questo per quanto riguarda appunto la parte di asset, e lui parlava anche di dimezzare la quota azionaria, in particolare vendendo asset asiatici, in sostanza. Questo però, come dire, tenendo sempre presente che arrivi oggi quando i buoi sono già usciti dalla stalla, quindi si sarebbe già dovuto recuperare qualche mucca, ma non è che so che tu hai analizzato anche profili differenti, no, sulle 24 ore di oggi, cioè sì, hai cercato di capire cosa deve fare adesso quell'investitore che ha magari un profilo di investimento aggressivo, chi invece ce l'ha assolutamente prudente. E noi ammettiamo che quelli che ci ascoltano sono quasi prudenti, tutti tranquilli e prudenti. Sì, abbiamo diviso in chi ha già degli investimenti, appunto, che voleva mettere a riparo dall'effetto contagio, ma anche chi ha della liquidità a disposizione, e quindi, fatto 100 questa liquidità, abbiamo dato delle indicazioni su come entrare in base appunto al proprio profilo. Quelli, per esempio, che amano prendere più rischi potrebbero già dividere in due tranche questa liquidità, investire subito una metà adesso e un'altra metà aspettando appunto un ulteriore storno. Chi invece ha un profilo più conservativo deve dividere questo fatto 100 questa liquidità in tre o anche quattro tranche, perché in questo modo tu abbassi il rischio che prendi nel momento in cui entri sul dollaro o su altri asset. Quindi indichiamo per un profilo medio questa liquidità da spalmare su obbligazioni corporate a 1 a 5 anni, cover bond tedeschi. Sempre Agile Advisory ha indicato queste scelte. Poi segnalano anche azioni europee con alto dividendo, quindi utilities e pharma in particolare, e poi appunto la diversificazione sulla valuta dollaro, perché adesso ne volevo chiedere anche al gestore. In sostanza, il fatto che ci sia un euro così forte rispetto al dollaro, molti mi hanno detto che è irrealistica la cosa, 1,16, 1,17, è irrealistica, però è un'opportunità, perché tu in questo momento, se non eri diversificato sul dollaro americano, potresti entrare intorno a 1,16 e quindi cominciare a comprare asset in dollaro americano, che alla luce dei tassi che dovrebbero risalire poi appunto ti porterà dei vantaggi. Benissimo, allora oltreoceano ci andremo dopo la pausa che devo fare fra un istante, e quindi faccio appuntare queste considerazioni a Michele De Michelis, con il quale ripartiremo appunto dopo la nostra borsa flash. C'è anche Isabella da Parma pronta ad intervenire all'800 24 00 24. A tra pochissimo. Cuore e denari. Oh, discesa o una salita, proprio quella che stanno facendo i mercati in questi giorni. Una canzone che si adatta anche al tema dei mercati finanziari. Invece le vacanze possono portare anche altri spiacevoli disturbi: sabbia, bordi piscine sui quali ci appoggiamo, non sempre disinfettati al massimo, un costume bagnato tenuto addosso per troppo tempo, una scarsa idratazione. Sono queste le cause che possono portare spesso ad un disturbo molto diffuso fra la popolazione femminile, che è quello della cistite. Se anche voi soffrite di questo disturbo, soprattutto in estate, o vi capita di soffrirne per tutto l'anno, questa è la puntata che fai per voi. Ne parleremo dalle 11:45, ma voi potete cominciare a chiamarci su questo argomento all'800 24 0024. Cado giù, cado giù. Cado giù. Cado giù, cado giù. Continuiamo a parlare delle borse che cadono giù. È ricaduta stamattina pesantemente la Cina, meno 8% abbondante, è ricaduta Tokyo, ha fatto quasi meno 5%, è rimbalzato l'Hang Seng di Hong Kong, rimbalza l'Europa più 3%, come abbiamo aggiornato poco fa. Noi ne continuiamo a parlare con Vitaliano D'Angerio, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, che oggi per le pagine del quotidiano firma La Bussola del Risparmiatore, con Michele De Michelis, responsabile degli investimenti di Frame Asset Management, autore del fondo che non affonda, guida rapida per imparare a selezionare fondi e gestori. E allora De Michelis, ancora prima di darci la sua ricetta sul dollaro, sugli investimenti in valuta americana, sui tassi di interesse e le decisioni della Federal Reserve, visto che lei sui segreti della gestione del fondo di investimento sa tutto, le consegno la domanda di Isabella da Parma. Isabella, benvenuta. Grazie, buongiorno. Buongiorno. È un'investitrice, Isabella? Ma sì, piccolina, però sono affidata a un personal advisor, quindi a un consulente che mi ha proposto un portafoglio su misura, certo. Considerando che io non voglio rischiare, eccetera, eccetera. Bene, io la mia domanda forse è ingenua, però è legata a questo, forse anche al mestiere che faccio, mi occupo di strategia e di marketing. Allora, una volta che è stato confezionato un portafoglio su misura, non rientrerebbe anche nelle, così, nelle abilità di un bravo gestore riuscire ad intuire prima che accadano, in strategia si fa così, certe cose, e consigliarti di vendere e poi eventualmente di rientrare quando le condizioni sono favorevoli o cambiando il portafoglio, e non subendo gli andamenti di un portafoglio scelto ab inizio e poi se va giù va giù, aspetteremo che torni su, e poi se andrà giù andrà giù, perché altrimenti è una abilità, quella del personal advisor, dimezzata. Cioè io nella mia posizione devo intuire quello che ancora non c'è, poi magari mi sbaglio, però se uno vende intanto che guadagna, per esempio, non si sbaglia mai. Allora, ecco. Isabella, no, la questione è che io sono assolutamente, diciamo che il bravo gestore deve fare assolutamente il lavoro che dice lei, e sono convinta, perché ne conosco molti, che molti lo facciano nei tempi giusti, intuiscono le correzioni e soprattutto poi di conseguenza a loro volta, poi il gestore non è quello che vende direttamente una soluzione di investimento ad un piccolo risparmiatore, c'è una persona che intermedia questo lavoro, che è il consulente finanziario, e che a sua volta si interfaccia con entrambe le figure, da una parte e dall'altra, con il risparmiatore che segue, con il gestore magari di cui vende i fondi di investimento. In quel caso molto spesso, Michele De Michelis, non è mica facile dire anche a un risparmiatore: tu stai guadagnando, forse è ora di uscire da questa posizione, perché lì c'è un altro conflitto poi che si scatena, un altro dilemma, che no, perché lì qualche volta un po' l'avidità anche si affaccia. Detto questo, che ne pensa delle osservazioni della nostra ascoltatrice, che sono puntualissime e straopportune, direi? Ma le osservazioni sono sicuramente giuste e abbastanza coerenti con il risparmiatore tipico italiano, cosa che avviene un pochino diversamente nel mondo anglosassone. Diciamo che tendenzialmente, se si evitano i consulenti finanziari, che in realtà sono dei venditori, è meglio, è sempre meglio utilizzare quei consulenti finanziari che hanno la possibilità di intermediare il più numero possibile di case di investimento, fondi di investimento, titoli, quant'altro, di modo che non abbiano il, diciamo, l'assillo del budget da parte della propria casa. Diciamo che oggi sono in gran parte così, comunque, De Michelis, ormai, come dire, il consulente che vende esclusivamente i prodotti della casa che rappresenta sono quasi scomparsi comunque dal mercato italiano oggi. Sì, hanno esatto. questo aspetto sta migliorando moltissimo negli ultimi anni. Diciamo che possiamo ancora migliorare, soprattutto quando poi i fondi di investimento verranno quotati in borsa, come appunto già sta avvenendo, che mi auguro aumentino sempre più. Comunque, per tornare alla domanda dell'ascoltatrice, l'ascoltatrice, non siamo in televisione, scusate, non si preoccupi, sono qua per questo, insomma, per correggere le cose non corrette che vengono dette, ci mancherebbe altro. Diciamo che è ovvio che il bravo consulente finanziario non deve seguire il portafoglio di investimento cercando di fare un asset allocation che abbia il più possibile delle decorrelazioni o correlazioni negative tra i vari prodotti di investimento presenti nel portafoglio, ovvero che non vadano tutti nella stessa direzione nello stesso momento, e intervenire quando ci sono degli eccessi in un senso o nell'altro. Ora, pensare che consulente finanziario possa capire quando ci saranno le correzioni mi sembra una cosa molto difficile. No, diciamo che secondo me è più vera l'ipotesi per cui è molto difficile dire ad una persona: guarda, stai guadagnando un po', è forse il caso che tu esca, perché poi lì come succede, perché me lo raccontano, si scatena un altro conflitto, dice: ma insomma no, ma fammi continuare a guadagnare, ma per quale motivo devo uscire? Per cui in realtà molto spesso quel suggerimento che il consulente ci dà forse non lo vogliamo prendere fino in fondo. Vitaliano, tu che ma ne pensi? Sì, di Michele. Per concludere, diciamo che è consigliabile comunque correggere gli eccessi quando c'è un guadagno molto alto, almeno in quota parte prendere beneficio, e quando c'è un ribasso consistente, tipo quello di ieri, potrebbe essere il momento di entrata sui mercati. Probabilmente, insomma, Isabella è incappata certamente in un bravo consulente finanziario, ma che invece non è stato in grado di dirgli: guarda, attenzione, questa correzione sta arrivando, secondo me ormai sei a buon punto con il tuo gain e quindi potresti anche cominciare ad uscire, insomma, il guadagno che si realizza con il proprio investimento. Vitaliano? Sì, di solito è la parte cosiddetta tattica, no, di un portafoglio, cioè c'è una quota che è bloccata, che è strategica, che tu decidi per i tuoi obiettivi, puoi comprarti la macchina, pagare il master al figlio e così. Poi c'è di solito un 5-10%, anche di più, che in queste situazioni può essere utilizzato dal consulente per entrare, uscire, ed è la chiamano appunto quota tattica del portafoglio, ed è quella che di solito dovrebbe essere utilizzata in questi momenti. Ma la parte strategica, quando tu hai definito i tuoi obiettivi, non puoi modificarla in base al crollo di Shanghai, perché altrimenti sarebbe un assurdo. Se tu fai un investimento sulle aree emergenti perché ritieni che quel denaro fra 20 anni ti servirà per integrare la tua pensione, diciamo che questo meno 8% quotidiano che vediamo in questi giorni teoricamente dovremmo trascurarlo, poi farlo è tutt'altra. Paradossalmente, in certi casi è anche un fatto positivo, per esempio nei PAC, nei piani di accumulo, anche nei fondi pensioni che lavorano come PAC, in queste situazioni comprando compri a un livello più basso e quindi accumuli con la stessa cifra, con i 100 famosi 100 euro al mese, compri più quote della borsa di Shanghai che in passato, quindi c'è anche l'altra medaglia, no? Se investi sul lungo periodo. Diciamo che vanno un po' peggio le cose in queste ore per quei 90 milioni di cinesi che senza nessuna consapevolezza hanno investito sul mercato azionario cinese, che era ormai in bolla conclamata. Per tutti gli altri che invece prendono posizione sul mercato cinese con un fondo di investimento, è avvenuto un momento, quello che è avvenuto in Italia all'inizio del 2000, di scrollone temporaneo che verrà superato. Allora, qua abbiamo solo 2 minuti di tempo, non riesco a sentire Paolo da Verona e Alberto da Bergamo. Magari Alberto, velocemente, se ce la fa in 30 secondi la sua domanda, poi a Michele De Michelis devo anche far fare il suo commento sul dollaro che abbiamo sospeso. Alberto, velocemente, grazie. Sì, buongiorno. Volevo chiedere che senso ha diversificare. Bravo. Quando a scrollo di ogni borsa infatti. Bravo Alberto, guardi, questa sua domanda necessiterebbe di un'altra puntata, perché effettivamente è vero. Continuiamo a dire: diversificate il vostro portafoglio, non mettete tutte le uova nello stesso paniere, perché almeno quando scende il mercato azionario, quello obbligazionario certamente compenserà quelle perdite. E insomma, ieri non è che abbiamo visto proprio esattamente. Beh, tutto sommato l'obbligazionario ha retto. De Michelis, allora, un commento ad Alberto e un commento sul dollaro. Mi deve fare tutto quanto in un minuto, ce la fa? Ok, sì, certo. Allora, la diversificazione ovviamente si intende non su borse, ma per asset class, quindi obbligazioni, azioni, ma anche materie prime, come può essere l'oro, le valute, quindi Per esempio il crollo che era venuto qualche mese fa, soprattutto sui mercati obbligazionari, quando i tassi di interesse erano saliti, era stato, diciamo, strano, perché tutte le asset class avevano corretto allo stesso momento, ed era una cosa che succede ogni tanto ed è molto pericoloso. Però tendenzialmente nel medio periodo le correlazioni negative funzionano. Mm-hmm. Quindi, per esempio, certo, ieri lo yen ha protetto, è salito nei confronti del dollaro, quindi certo, chi aveva yen anche ieri oggi funziona, perché la Cina è riscesa, l'Europa invece, esatto, sta andando bene, per quindi, cui c'è un'altra, quella geografica, cioè sì. Quindi ci sono delle correlazioni che funzionano. Per quanto riguarda il discorso del dollaro, appunto, che in passato aveva agito da protezione, vorrei far presente che un anno fa stava a 1,35 e quindi ha fatto 25 figure nel giro di uno spazio di qualche mese, toccando 1,05. Quando è arrivato 1,05 sono uscite tutta una serie di report delle grandi case di investimento che lo vedevano a 0,80, mi sembrava ovviamente molto eccessivo. E oggi è tornata a 1,16, 1,15, 1,16, ieri ha fatto un picco di 1,17. Anche in questo caso sì, consiglio di prendere qualche posizione sul dollaro, non eccessiva, ma ovviamente posizioni da trading cosiddette, mm-hmm, cioè quando ci quelle sono tattiche e non quelle strategiche, quelle come diceva prima l'italiano. Quelle sì, tattiche, perché quando vediamo dei movimenti di 10 figure sulle valute nel giro di un mese, e allora, può essere che magari tra un mese lo vediamo 1,08, 1,09, in quel caso bisogna prendere il beneficio. Grazie. Quindi non... De Michelis, purtroppo devo interrompere. Sul dollaro ci torneremo magari con un'altra puntata, quando Janet Yellen ci darà la data precisa dell'aumento, infatti, dei tassi di interesse. Volevo solo leggere un messaggio di Antonio da Bergamo, perché quantomeno ci riconosce un lavoro. Ho girato tutto quello che avevo nei PAC, nei piani di accumulo, totalmente azionari a fine luglio, in un fondo obbligazionario. Il guadagno medio era del 30%. In banca mi davano per pazzo. Grazie ai vostri consigli è andata bene. Chissà quando li avremo dati. Comunque, se Antonio ce lo riconosce qualche volta, qualche consulente dal nostro microfono avrà dato questo input. Le banche sono furbe, il risparmiatore non conta nulla. Antonio, abbiamo delle teste, dei cervelli, per cui certo, cominciamo ad utilizzarli possibilmente. Grazie Vitaliano, grazie, buon lavoro. Grazie a te e a tutti, arrivederci. Grazie De Michelis, buon lavoro anche a lei, anche con il suo libro che regaleremo a qualche ascoltatore magari. Grazie mille, a presto, buona giornata, arrivederci. Sì, pubblicità, traffico e poi andiamo con la cistite. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Cuore e denari. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì. Allora, anche se canta Pippo Franco e quindi cantano gli uomini in questa canzone, in realtà oggi parliamo di cistite, che è una delle più frequenti infezioni delle vie urinarie che colpiscono le donne, però c'è anche una versione maschile, adesso lo chiederemo alla nostra ospite. Noi questo problema lo conosciamo bene per esperienza diretta e indiretta, anche quando arriva spesso ritorna, sono dolori. Oggi con noi la professoressa Irene Cetin, primario del reparto di ginecologia all'ospedale Sacco Università di Milano. Dottoressa, buongiorno, ben ritrovata Cuore Denari. Buongiorno. Ci sono già tantissime telefonate da parte di molte ascoltatrici, ma non solo, all'800240024. Maria da Siracusa ci scrive: 5 anni fa ho fatto l'intervento per il rialzamento della vescica, ma spesso soffre di vescica, appunto, e può essere per la retina che hanno messo nell'intervento. Magari è un tema un po' più specifico, ci arriveremo dopo tutto ciò che attiene ai disturbi della cistite. Poi abbiamo due ascoltatori pronti ad intervenire, che sono Norberto da Milano e Sandro da Roma. Ma prima di sentirli, dottoressa Cetin, la cistite è un'infiammazione della vescica, però c'è cistite e cestite. C'è quella di origine batterica, che è quella più frequente ed è quella di cui ci occuperemo oggi, ma c'è anche quella non batterica. Come le riconosciamo le due versioni, dottoressa? Non è facile riconoscerle, perché spesso i sintomi sono simili. Però diciamo che quella che non è associata a un'infezione batterica è più spesso legata per esempio nelle donne ai rapporti sessuali, è quindi più di tipo infiammatorio, è legata a una forma di iperreattività vescicale che porta a un'infiammazione non sempre caratterizzata appunto poi da presenza di un'infezione vera e propria, però tutto sommato sono molto più rare queste forme che non hanno un'origine batterica, tant'è vero che comunque alla fine la terapia molto spesso è una terapia sintomatica senza fare un esame, ed è una terapia comunque certo. Che usa dei disinfettanti delle vie urinarie. A proposito di sintomatologia, ce la vuole ricordare quali sono i sintomi che ci danno proprio chiarezza e lucidità dell'arrivo della cistite, dottoressa? I sintomi della cistite sono molto chiari, sono rappresentati da uno stimolo urgente a urinare, quindi proprio la sensazione di dover urinare frequentemente, bruciore intenso durante la menzione, sensazione poi comunque di non riuscire a svuotare mai del tutto la vescica, quindi anche appena finito di urinare si ha di nuovo la sensazione di dover urinare ancora, e poi dolore comunque nella zona sopra il pube, a volte anche accompagnati da una temperatura superiore a quella normale, nelle forme un po' più gravi, e poi a volte c'è anche una forma cosiddetta emorragica con presenza proprio di sangue nelle urine. Quindi addirittura può dar corso anche a un po' di febbre quando ci sono i casi un po' più preoccupanti. Sì. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Abbiamo detto che praticamente la popolazione femminile è generalmente un po' più colpita da questo problema, ma c'è anche una versione al maschile, dottoressa? Sì, c'è una versione, anche gli uomini soffrono di cistite, è molto meno frequente perché invece, come lei giustamente ha detto, nella donna è l'infezione in assoluto più frequente di tutto l'organismo femminile, nell'uomo colpisce circa il 2-3% degli uomini e spesso è comunque associata a problemi alla prostata, per cui la prostata provoca una difficoltà, cioè l'ingrossamento della prostata causa una difficoltà di svuotamento della vescica e questo facilita l'accumulo di germi, certo. È decisamente meno frequente che non nella donna. Diciamo che da quello che so di questo problema, in genere, essendo un'infiammazione, la prima cosa che si fa si pensa all'antibiotico, al ricorso appunto all'antibiotico per poterla combattere, ma possiamo fare qualcosa anche prima di andare alla misura antibiotica, dottoressa Cettin, se riconosciamo immediatamente il sintomo, se magari siamo soggetti o soggette a delle ricadute frequenti rispetto a questo problema, dobbiamo sempre portarci l'antibiotico con noi oppure possiamo anche utilizzare dell'altro, soprattutto chiaramente se combattiamo con le forme non particolarmente violente, diciamo? Si possono utilizzare delle forme di prevenzione che non sempre sono efficaci, però sicuramente riducono la frequenza degli episodi per chi ha cistiti ricorrenti. E il primo consiglio è sicuramente, soprattutto d'estate quando fa caldo, bere adeguatamente, anche senza arrivare a 3 litri di acqua al giorno, però quando ci sono più di 30 gradi ovviamente abbiamo bisogno di idratarci molto ed è più facile avere cistiti in questo periodo proprio perché sostanzialmente il primo meccanismo che riduce la frequenza delle cistiti è proprio il fatto che la vescica non abbia una situazione di ristagno di germi e quindi se si è disidratati e si urina poco, la vescica viene un po' lavata meno, come dire, cioè è proprio un discorso meccanico, perché comunque teniamo conto che la cistite è causata quasi sempre nelle donne da un germe che è l'Escherichia coli, che risale dalla uretra, che è il canalino d'accesso alla vescica, e che arriva in realtà dall'intestino, ma non è un germe che noi cioè tutti noi ce l'abbiamo nell'intestino, nelle feci sono ovviamente molto ricche di germi che sono normali nell'intestino, siccome nella donna la distanza tra trasbocco, nell'apparato genitale è più ridotta, e questo è il motivo per cui nelle donne le cistiti sono assolutamente più frequenti, per cui l'Escherichia coli è molto resistente anche al flusso dell'urina, però comunque se una donna urina spesso è più difficile che ci sia ristagno di questi germi. Quindi insomma, prima dell'antibiotico, grandi misure di igiene, evidentemente ci sembra scontato dirlo, ma forse non è mai abbastanza, non è mai sufficiente questa raccomandazione. Poi idratiamoci molto, beviamo molto, in questo modo per combattere le cistiti frequenti. Subito le domande degli ascoltatori, perché abbiamo solo 3 minuti di tempo prima dei saluti, poi naturalmente ritorneremo dalla prossima settimana alla versione estesa di Cuore e Denari. Preannuncio già che da lunedì prossimo prossimo saremo in diretta con Nicoletta Carbone dalle 10.30, non più dalle 11, quindi dalle 10.30 alle 12, prendete nota del nuovo orario. Sandro da Roma, buongiorno, rapido se ce la fa, grazie. Sì, buongiorno. La mia domanda si riferisce alla cistite cosiddetta della luna di miele. Uh-huh. La mia compagna ce l'ha questa cosa qua e vorrei sapere se è possibile guarire, soprattutto perché lei ha preso questi integratori, tutte queste cose qua, ma uh-huh. non si riesce a uscire dal problema. E poi lei, ogni volta che succede, lei prende l'antibiotico e le passa. Ma non, quello che non capisco è perché non ritorna. Sì, non è batterico, per questo punto non è batterico, ma perché l'antibiotico fa effetto, non so se si può guarire da questa certo. cosa qua. Grazie Sandro, dottoressa Cettin. Ma allora, premesso che a volte non è facile guarire completamente, però comunque le cose da fare sono sicuramente individuare con l'urinocultura se c'è un germe specifico, immagino che questa signora l'avrà sicuramente fatto, e fare una terapia mirata. Antibiotica adeguata. Ecco. Antibiotica adeguata. E quello che si può fare quando la cistite comunque è ricorrente, oltre alle forme di prevenzione, adesso vado veloce, però le forme di prevenzione oltre all'idratazione comprendo anche l'utilizzo di quello che viene chiamato mirtillo rosso in Italia, che è il cranberry, che è stato dimostrato che riduce l'incidenza delle cistiti, è una forma di prevenzione associata poi anche all'utilizzo di probiotici, quindi miglioramento della flora batterica intestinale. Queste sono forme preventive, però se comunque la cistite ritorna si devono fare, sotto controllo ovviamente medico, delle terapie antibiotiche prolungate anche per 3 o 4 mesi con dei cicli di antibiotici, però questo va fatto assolutamente sotto controllo medico. Dottoressa, se la cistite colpisce durante la vacanza in maniera del tutto inaspettata, abbiamo portato con noi l'antibiotico, come è successo ad Alessandra che ci scrive un sms ad ampio spettro, tanto così per averne uno dietro per situazioni di emergenza, quello può andar bene, poi si può interrompere e prendere il farmaco più diffuso per questo problema, che io lo cito anche se faremo pubblicità a questo farmaco, che è il Monuril. Si possono prendere insieme? Che cosa dobbiamo fare? Purtroppo abbiamo solo 30 allora, secondi. Allora, in assoluto il Monuril, che però diciamo è il nome commerciale, perché sì. Proprio farmacologico, che è la fosfomicina, adesso tra l'altro c'è anche il generico. Il generico, ottimo. La fosfomicina è in assoluto il farmaco di prima scelta, in assoluto in tutto il mondo ancora è stato dimostrato che è quello che funziona meglio, e tra l'altro è anche quello che ha meno effetti nocivi, per cui sarebbe sempre meglio partire con la fosfomicina. Se proprio uno si trova, è chiaro, e non ha proprio null'altro, un farmaco da ampio spettro può andare bene, ma teniamo conto che non sempre è adeguato, perché non è detto che mirato. Lo copra. Grazie dottoressa Cettine, non abbiamo tempo di sentire Norberto da Milano, gli chiediamo di scriverci se vuole, così come lo chiediamo anche a Giordana, che voleva parlarci del valore di sintomo psicologico che può avere la cistite, un bel aspetto di questo problema. Grazie intanto dottoressa, buona giornata. Grazie, arrivederci. Noi ci fermiamo, adesso c'è il giornale radio, mi risentirete fra qualche istante con la aggiornamento di borsa. Con Cuore Denari torniamo invece domani alle 11. Buona giornata.